che stropisceranno gli occhi la mattina di domani. Sopra quel tappeto verde solo tu sai quali sono. Il giorno dopo senti come un gran bisogno di perdono. Le guardi, guardi gli altri quanto ti rimane. Poi decidi di passare, devi pur comprare il pane. Nella testa scorre il film di quello che potrà accadere. Se perdi tutto e poi non basta neanche le preghiere. Full, gran bottino nelle loro tasche. Donne a soli cuori sono solo due speranze. Buttale nel mazzo, aspetta che si gonfi il piatto. Tanto sai che la regina è destinata a qualcun altro. Non ho più pretese, sono corto, vado lì. Solo buio, grande buio, quindi pago per giocare, allora vedo se non muoio. Pago anche per vivere la vita che mi merito. Le carte non le voglio più girare, ho come il vomito. Colore, nero e rosso insieme fa marrone. Scala col gradino rotto e clima di tensione. Troppo tempo passa attorno a questa situazione. Bleffi sopra un bleff che ti serva da lezione. Carte, prego, le guardi allora vedo. Con due donne a fianco sono figo, almeno credo. Spendo quanto serve, quanto avanzo, non lo chiedo. Sto con loro in riva al fiume, forse sognano è concreto. Fiori, denari, tutto è pronto, si fotte. C'è un tipo che guarda insieme a te, direi di coppe. Una donna non bastava, neanche due sono troppe. Avrei vinto insieme a lei, ma dormo solo anche stanotte. Con i sentimenti sono corto, vado lì. Nessi desideri sono corto, vado lì. Sono uno qualunque, sono corto, vado lì. Arriverò al dunque, troppo corto, già in origine. Di fronte a me il vuoto, rimane poco. Capisci perché tutti mi chiamavano loco. Mi stanno cucinando, qua è la prova del cuoco. Ancora mischiano le carte, io non metto più a fuoco. Asso di quadri precede il 9 di fiori. Il 2 di picche sempre insieme alla regina di cuori. Colmavo quel gran vuoto senza usare liquori. Mi ritrovo in un casino e più non riesco a uscirne fuori. Scende anche un 4 che era dentro i suoi sogni. Però i sogni lo sai bene, non sono sempre bisogni. Ti sei messo in mezzo, stai finendo i tuoi soldi. Cazzo re di denari, sai quanto ti prendere a pugni.